Capitolo 9. Ballo a Kristiansand. Dame e gentiluomini della migliore società del luogo venivano alla casa della piazza per vedere ed ossequiare Mamsel Ross. Combinarono di dare un ballo in suo onore nel salone della Harmonier. Fino a quel giorno Mally era andata qua e là per la casa sontuosa col suo unico e modesto abitino e non ci aveva mai pensato perché un abito da ballo non l'aveva mai posseduto. Ma per il ballo la signora Hösewinkel fece preparare in gran fretta dalla propria sarta una veste di tulle con i falpalà e una borsetta per la giovane ospite di casa. La sera del ballo l'anziana signora rimase sorpresa vedendo con quanta disinvoltura e regalità la figlia della modista portava quei fronzoli e quasi quasi si domandava se lei stessa e tutta la città non sbagliassero a trattare un'eroina come un giocattolo in cambio di un atto eroico. Poteva risparmiarsi quella preoccupazione. Quel trattamento avrebbe potuto far girare la testa a un'altra ragazza, ma qui si aveva a che fare con una personcina la quale accettava di essere trattata come un giocattolo, con riconoscenza, e che allo stesso tempo trattava un'intera cittadina, con porto, strade, municipio e cittadini, come il proprio balocco. Allora Mally andò al ballo, ma non poté parteciparvi in pieno perché non aveva mai imparato a ballare. Una delle signore del comitato la pregò, invece, di cantare alla compagnia. Mally accettò volentieri e tutti ascoltarono con piacere la sua voce pura e limpida e i vecchi gentiluomini seduti ai tavoli da gioco alzarono i bicchieri del punch, mentre ella offriva loro un coro marinaro in ricordo dei loro anni giovanili. Infine, una ragazza propose di farle cantare qualcosa che essi potessero seguire ballando. Mally esitò un poco e poi, come un uccellino su un albero, si lanciò nella propria canzone. La canzone di Ariele, rivelando tutta un tratto una gioia lungamente trattenuta. Andiamo su queste sabbie gialle, andiamo mano in mano. Dopo un inchino e un bacio, le onde folli tacciano. Sgambettiamo qui e là, e ora dolci spiriti, riprendiamo il ritornello. La danza scorreva a tempo con la canzone e Mally, nel centro del salone, il luccicante, l'osservava nelle piroette e nei volteggi che obbedivano al suo ritmo. Ferdinand era stato invitato al ballo e Mally aveva atteso, felice di vederlo e di parlargli, perché non si erano più incontrati dopo la notte del fortunale. Ma egli aveva mandato a dire che non poteva venire. La cantante fissò allora Arndt Hösewinkel. Arndt era rimasto a parlare con alcuni vecchi mercanti, ma quando Mally aveva cominciato a cantare, l'aveva ascoltata e quando ella aveva cantato per la danza, aveva danzato anche lui. Mally vide come egli ballava bene, le bastò un'occhiata per capire ciò che egli rappresentava in quel salone e in quella cittadina e ciò che pensavano di lui le belle signorine che erano al ballo, quelle che avevano imparato a ballare. Ma la semplice fanciulla che s'era comperata l'ingresso all'unico ballo della sua giovane vita rischiando quella stessa vita, mentre vedeva ballare il primo giovanotto della città, capì anche di più. Pensava, Dio, quanto profondo è il suo bisogno. E poi, posso essergli d'aiuto, posso aiutarlo nel suo bisogno e salvarlo. Quando tornò a casa, Mally non andò a letto, ma rimase a sedere a lungo, nel suo abito di velo, davanti allo specchio illuminato dalle candele. Neppure Arndt Hösewinkel andò a letto, ma uscì di casa per una lunga passeggiata nella notte. Gli accadeva spesso di andare così, di notte fino al porto, poi ai magazzini portuali e anche oltre, lungo il fiordo. Capitolo 10. Scambio di visite. Mally desiderava far visita a Herr Sörensen, ammalato, e Arndt Hösewinkel l'accompagnò per mostrarle la strada fino all'albergo e per ossequiare l'uomo che con la ragazza aveva subito tante avversità in mare a bordo della Sophie Hösewinkel. Herr Sörensen era passato dal letto alla poltrona, ma era ancora come fosse muto. Il rapporto tra il vecchio e la ragazza era condizionato dal palcoscenico a tal punto che Mally Appena si fu adattata alla situazione, trasformò immediatamente il loro colloquio in una pantomima, come se il suo vecchio maestro, che aveva perduto la voce, fosse inevitabilmente diventato sordo. Il maestro e l'alunna si animarono in compagnia l'uno dell'altra e Mally capì subito che la bellezza di Arn turbava e commuoveva fortemente il vecchio capocomico e che egli stava pensando, oh, poter avere un primo amoroso come quello. Non sapeva, però, che in quello stesso momento egli si meravigliava dell'aspetto di lei e si chiedeva: com'è possibile che il seno della ragazza sia diventato così rotondo in così breve tempo? Tutti i suoi movimenti erano infatti rotondi e morbidi, mentre gli spiegava in pantomima di quanta cordialità era stato oggetto da quando si erano lasciati. Quando giunse per lei e per Arn il momento del congedo, Herr Sørensen le prese la mano, la strinse come meglio sapeva e sussurrò o sibilò debolmente: «Oh, mia bella Arielle, mi mancherai tanto!» Allora Mally ritrovò la sua voce. «Quanto vuoi a me!» gridò forte, senza ricordare che non avevano mai parlato di separarsi. Herr Sørensen fu lasciato solo e per molti giorni rimase profondamente angustiato e commosso. Aveva capito o colto a sprazzi l'atteggiamento della sua giovane allieva e ne era rimasto impressionato. Era un'impresa immane, sollevare l'intero mondo, la vita quotidiana sul palcoscenico e farne con esso una cosa sola. Sia fatta la tua volontà, William Shakespeare, così in scena come in salotto. Qua, nella realtà vera e propria, il suo Ariele spiegava un paio di ali e si sollevava da terra proprio davanti ai suoi occhi. Improvvisamente e stranamente rivisse il tempo in cui, nell'esuberanza di cuore di un giovane attore, lui stesso aveva sognato quell'apoteosi. Adesso gli accadde perfino per 2 o 3 notti dopo la visita di Mally di trovarsi, mentre sognava nell'angusto letto del suo alloggio, compagno della sorte di lei, sia come Prospero in visita di suocero ai giovani reali di Napoli, sia come buffone di casa Hösewinkel. Ma quando si destò nuovamente abbandonò l'idea. Nel corso della sua lunga vita aveva acquistato esperienza e intuizione, e per chiunque abbia esperienza e intuizione, anzi per chiunque, salvo per una giovane attrice innamorata, l'idea di trasportare la vita quotidiana sul palcoscenico era paradossale e, nella sua essenza, blasfema. Era infatti probabile che la vita quotidiana trascinasse giù il palcoscenico al suo livello, ma assai improbabile che il palcoscenico riuscisse a mantenerla su un piano tanto elevato e tutto l'ordine del mondo avrebbe ben potuto finire in una baraonda. Ora pensava che avrebbe perduto il suo Ariele, che la grande impresa della sua vita non si sarebbe mai realizzata e se ne addolorava. È giusto, si chiedeva, che l'orribile tempesta marina del Kvasefjord si riversi nel pieno della sua tempesta shakespeariana? Era mai possibile che fosse stata provocata dalla volontà di quella bimba prodigiosa, intrepida e straordinaria? E così, appena ritrovò almeno in parte il modulato registro della sua voce, il vecchio capocomico ricambiò la visita in casa dell'armatore. Per l'occasione si comprò un paio di guanti color lavanda che risaltavano contro la vecchia palandrana e il logoro cilindro, ma erano in armonia col suo portamento e col suo tono di voce. I suoi modi erano così cortesi e deferenti che Frau Hösewinkel, poco abituata a uomini di mondo tanto umili e deferenti, se ne sentì intimidita. Egli faceva un inchino ad ogni minuto e si mostrava instancabile nel lodare tutto ciò che era in casa. Se aveva trascurato un oggetto, si affrettava a riparare alla sua negligenza, come se volesse presentare agli alti specchi tra le finestre o alla vista sulla piazza del mercato le più umili scuse per la sua distrazione. Sbottò dicendo: «Che splendidi, magnifici oggetti, raccolti nella vecchia Europa a chissà quale prezzo! Che tesori, portati dalla Cina e dalle Indie! Oh, che candelabri incantevoli, che stupende pitture di navi maestose!» Herr Sørensen e Mally rimasero per un momento soli nel salotto. Herr Sørensen si mise un dito sulle labbra, soffiò un bacetto a Mally e annunciò solennemente: «Figliola mia, sei prediletta da Madonna Fortuna?» Siccome Mally lo fissava con occhi limpidi e decisi, egli guardò da un'altra parte. tirò fuori del taschino della giubba un vecchio fazzoletto di seta, si asciugò la fronte e concluse, quasi sottomesso e più rivolgendosi a se stesso che a lei. Il mio Pegaso è stanco, recita schietto solo se può. Ma aspetta tu, vecchio ronzino, ora vedrai chi di noi è l'uomo. Quando si fu congedato, con una serie di teneri inchini, Malli rimase in piedi vicino alla finestra, per seguire con lo sguardo quella figura che attraversava orgogliosa la piazza e diventava sempre più piccola, fino a sparire. Capitolo 11. La storia di un fidanzamento. Il pensiero o l'idea che Malli, invece di proseguire il viaggio con Herr Sørensen e la sua compagnia, avrebbe potuto restare in città e finire per appartenervi, sorse anzitutto tra la gente che l'aveva acclamata quando la sua nave era entrata nel porto. Si può dire che in quella comunità quel pensiero o quell'idea si muovessero in una spirale. Via via che i suoi anelli si stringevano, essa saliva più in alto, sia socialmente che emotivamente. Quando alla fine toccò coloro verso i quali si volgeva, essa toccò anche l'apice della tensione e del destino. Nelle piccole comunità in cui accadono poche cose, si fa di regola un gran discorrere. In esse un fidanzamento è l'argomento supremo di conversazione e di discussione, e più forte è l'interesse provocato dai giovani che si crede siano fidanzati, più vivace è il discorrere che se ne fa. Può quindi valere la pena di riferire che in questo caso fu detto assai poco. Arn Hösewinkel era il beniamino della città e il suo miglior partito. Mallin era l'eroina, ma via via che i due si accostavano e nella mente del popolo diventavano una persona sola, avvenne che le loro figure sfuggissero all'osservazione. Una profonda ventata di comprensione serpeggiò per la città, ma i due nomi furono pronunciati meno spesso di prima. La gente semplice della città provava piacere all'idea che Arn Hösewinkel e Mamsel Ross potessero accoppiarsi. Era di nuovo il lieto fine, sorprendente e previsto allo stesso tempo della favola in cui Cenerentola sposa il principe. La loro città, in premio di un'azione generosa, dava generosamente ciò che di meglio aveva da dare. Che la casa gialla sulla piazza del mercato dovesse aprire le porte a una nuora povera, all'orfana di un capitano annegato, rallegrava e commuoveva le mogli dei marinai, e nella loro gioia non v'era alcuna malizia verso l'armatore o la sua dama. Non si era infatti proclamato al porto stesso che la sposa era un tesoro? In quanto simbolo del mare, procacciatore di pane e destino per tutti, ella univa, come lo stesso mare, la gente umile della città ai suoi più ricchi abitanti. Il pensiero o l'idea s'arrampicò su per la spirale fino a un cerchio più elevato e più ristretto e conquistò l'accesso alle case della migliore società. Allora il buon nome di Malli tremò per un giorno o due sull'orlo dell'abisso. Quassù, infatti, ci si domandava se l'eroina non fosse in realtà un'avventuriera che sfruttava l'ammirazione e la riconoscenza della città per fare un matrimonio superiore alla sua condizione. Ma nella stessa immagine della ragazza vi era qualcosa che fece quasi immediatamente pendere la bilancia in suo favore. I vecchi gentiluomini del ballo furono i primi ad assolverla. Le loro mogli, gente onesta che aveva spesso tremato per navi d'equipaggi, esaminarono la condotta di Malli la notte della tempesta e riconobbero che nulla di ciò che ella aveva fatto poteva essere interpretato come un calcolo. Forse ciascuna delle giovani figliole di quei cittadini, le stesse che avevano ballato al canto di Malli, rifletteva che se non poteva lei stessa avere Arn Hösewinkel, la ragazza alla quale l'avrebbe ceduto più facilmente era la ragazza del naufragio. Ma forse quelle stesse ragazze, che si conoscevano dal giorno dei pettini ricurvi e delle mutande con le trine alla caviglia, conoscevano troppo bene le lacune le une delle altre. Di una giovane bellezza specialmente ammirata per i suoi piedi piccoli, sapevano che si faceva fare le scarpe d'un numero troppo piccolo e quindi si era fatta venire un callo. Di un'altra, incantatrice, sapevano che le lucenti trecce d'oro non erano cresciute tutte sul suo capo. Della straniera, quelle belle ragazze sapevano che era povera, mal vestita e troppo grande per essere elegante e che non sapeva ballare. ma in quei suoi modi particolarmente timidi c'erano tanta fiducia e tanta ammirazione per tutta la bellezza che la circondava, che in sua presenza tutte si credevano più belle. E poi avevano improvvisamente avuto la sensazione che la ragazza del mare avesse in sé una risata diversa dalla loro. Era risuonata in pieno uragano o ne aveva accompagnato il fragore. Il pensiero, o l'idea, arrivò alla casa sulla piazza. Trovò il suo punto d'appoggio nel tinello della servitù e da questo salì al primo piano, dove parve d'essere d'importanza capitale. Giù in tinello finirono per accettare Mally e addirittura per chiudere in silenzio un anello attorno alla futura padroncina di casa, che possedeva soltanto un vestito e 3 camicie, e cantava con tanta dolcezza. Il pensiero, o l'idea, salì su per le scale fino al salotto coi dipinti delle navi maestose e lo colmò di un gravido silenzio. Il moto della spirale l'aveva portato molto in alto e quassù era il futuro stesso. Trovò l'atmosfera del salotto preparata o in attesa, come lo strumento accordato lo è per la melodia. Il vecchio padrone di casa era adesso di ottimo umore. Aveva le guance delicatamente colorate di rosa, si metteva il cravattone a fioco e portava regali a casa. Merletti per la sua dama e prugne caramellate per Mally. Col miracoloso salvataggio della sua nave in quella notte di tempesta, qualcosa di romantico e di eroico era entrato nella sua vita regolata e monotona. Il soffio del fortunale, il canto del vento tra le vele. Era giusto che, come suocero, proprio lui stesso fosse alla fine preso nel gorgo da un'eroina. Si può pensare che sia pericoloso estendere alla vita quotidiana il proprio entusiasmo per un gesto eroico. E l'esperto armatore avrebbe davvero potuto trovarsi un po' a disagio di fronte a una nuora eroica, fosse stata la Pulzella d'Orleani in persona, le cui prodezze erano state compiute a terra. Ma l'alone di Mally era stato conquistato sul mare, tra cavalloni salati e spruzzi di schiuma. Jochum Hösewin, che l'aveva da giovanissimo naufragato su una nave di suo padre, non gli dispiaceva una nuora in presenza della quale avrebbe avuto nuovamente 18 anni. L'oscura origine di Mally poteva gettare un'ombra sulla giovane figuretta che girava qua e là per casa, ma il mare aveva dimostrato una volta d'essere alleato della ragazza e nessuno dubitava più che l'armonia tra i due fosse perfetta e che Alexander Ross fosse affondato con onore a bordo della sua nave. La fermezza dimostrata da sua figlia sulla Sophie Hösewin, che l'aveva, anzi, provato questo fatto quasi in un senso mistico. Jochum Hösewinkel si rammentò il nome di un vecchio comandante svedese, Ross, amico di suo padre, anch'egli di origine scozzese, la cui figura era anch'essa avvolta in un certo mistero. Il comandante avrebbe potuto essere benissimo un parente del capitano della nave perduta, e si poteva benissimo avere a che fare con una famiglia di eroi. Fru Wenkel, Hösewinkel, sempre donna di poche parole, si stupiva in silenzio della rapidità con cui tutti gli uomini si dimostravano capaci di assumere un punto di vista di fronte agli avvenimenti della vita. Osservava la faccia di suo figlio, ascoltava la sua voce e aspettava il momento adatto per intervenire. Il pensiero o l'idea giunse finalmente al suo traguardo e al suo vertice, investendo gli stessi 2 giovani che avrebbero dovuto essere la coppia felice. Ne furono entrambi sorpresi come da un'idea brillantissima e sbalorditiva, proveniente da un mondo esterno che si avevano dimenticato. Da alcune settimane dimoravano tra poteri immortali. Ora che anche il mondo mortale dava loro la sua benedizione, essi accettavano anche questa, e da ora in poi la loro eternità poteva diventare la loro vita quotidiana. Per Mally voleva dire che si compiva e perfezionava la propria potente ascesa. Una volta le erano state date delle ali, che le erano miracolosamente cresciute ed erano state capaci di portarla sempre più in alto, verso questa gloria indescrivibile. Era su un'altura inebriante, ma poteva sporgersi da qualunque punto di quella sommità, perché ovunque le braccia di Arn sarebbero state pronte ad afferrarla e a sorreggerla. Ora Doveva anche diventare sua moglie, portare il suo nome e far propria la casa di lui. Doveva spartire tutto ciò che gli possedeva e lasciare che egli la rendesse in tutto pari a lui. Aveva sognato, tremando, di recitare la parte di Giulietta. Ora la vita le offriva una parte bella quanto quella. Ed era la fanciulla di Arendal che non aveva consentito ad essere il premio di nessuno. La felicità di Arn era d'altro genere. Promesse di tanto tempo fa, che la sua mente aveva respinto, ora sorgevano di nuovo e si realizzavano. Il mondo era stato inquieto. Appariva disorganizzato e vuoto. Una ragazza l'aveva guardato e sotto i suoi occhi era diventato unito. Era diventato un cosmo. Al porto aveva ricevuto la ragazza povera e valorosa che aveva salvato una nave della sua casa. Quella fanciulla era l'ultimo essere umano che avrebbe voluto rendere infelice. Non sarebbe diventato il suo destino. L'aveva baciata e da principio nella casa dei genitori per farsi perdonare quel bacio era rimasto lontano da lei. Ma un giorno Mally l'aveva guardato con occhi candidi e lucenti, tanto apertamente, da fargli sentire che né lui né nessun altro al mondo poteva rendere infelice quella giovane creatura. Ciò colpì il giovane ricco come uno scherzo da parte del destino. Egli ricambiò lo sguardo alla ragazza, s'accostò a lei e le parlò. E guarda, anch'egli allora ebbe un destino, con lo sguardo limpido, generoso, senza sottintesi. Sì, era un'eroina. Una fanciulla, come dicevano tutti, col cuore di un leone, ma in modo diverso da quello che la gente sapeva. Non aveva bisogno di temere, perché dove era lei non v'era il pericolo. V'erano ancora naufragi, disperazione e sventura, ma naufragi, disperazione e sventura erano mutati e diventati prova dell'onnipotenza e della misericordia. Più tardi, nella notte, egli vide stranamente l'immagine di se stesso come era stato prima che venisse lei. Pensò, ha il potere di ridestare i morti. Proprio prima dell'alba vide anche l'immagine di Guro, alla quale non pensava da molti anni, e ricordò che insieme erano stati uniti e felici, ricchi di desiderio e di tenerezza nelle notti di primavera, in notti come quella. Capì che nell'ultimissima notte di primavera il mare aveva stretto Guro in un amplesso possente, colmo di potere e d'amore, di perdono e di oblio. E ora, dolci spiriti, riprendiamo il ritornello, suonava una voce attorno a lui, nella casa buia. È ragionevole supporre che Arn chiedesse a Mally di diventare sua moglie, secondo l'uso abituale a ogni corteggiatore, e che ella gli rispondesse di sì nel modo abituale a una ragazza comune. Ma la domanda fu posta e accolta come se dovesse decidere dell'eterna salvezza di entrambi. Rimasero abbracciati e stretti, sorretti e sollevati dalla stessa ondata, ma non si baciarono. Un bacio non si addiceva a quell'istante di eternità. Un momento dopo, mentre sedevano insieme sul divano accanto alla finestra, ella gli chiese sottovoce, gravemente, sei felice? Egli le rispose lentamente, sì, sono felice, ma quel che tu sei, Mally, non è felicità, è vita. Non ero sicuro che la vita si potesse trovare nel mondo. La gente diceva è questione di vita o di morte, e io pensavo che misera questione. Pensavo che io stesso sapessi tutto e presagissi la rovina. Oh, Mally, oggi sono un enigma a me stesso e un portatore di gioia al mondo. Poco dopo che gli aveva parlato, ella gli crollò davanti e siccome egli la voleva rialzare, ella gli impedì, posandogli le mani giunte sulle ginocchia. No, lasciami, lasciami qui in terra, così, ella disse. Questo è il luogo che mi si addice. Il suo volto, umile, dolcissimo e rapito, brillava alzato verso di lui. Sì, ella proseguì molto lentamente. Io sono la risurrezione e la vita, disse Mally. Colui che crede in me, seppure morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. e vivrà in eterno. Arn doveva andare a Stavanger per la compagnia, perché vi si vendeva una nave a causa di un'improvvisa bancarotta. Partì alcuni giorni dopo, al mattino presto. Non sapeva quanto gli sarebbe costato dividersi da Mally, e all'ultimo dovette farsi forza per partire. Anche Mally, dal canto suo, aveva preso questa separazione di alcuni giorni con leggerezza, quasi le pareva di aver bisogno di tirare il fiato. Soltanto quando, al momento della partenza, ella lo vide tanto pallido, anch'ella si fece pallida. Qualcosa di tremendo avrebbe potuto capitargli durante il viaggio. Ella avrebbe dovuto impedirgli di andare, o avrebbe dovuto andare con lui per sviare la sventura che lo minacciava. Nella fresca mattina di primavera rimase ritta sui gradini della casa, avvolta nello scialle delle Indie orientali che le aveva dato sua madre, e vide il carrozzino di lui, che si allontanava. Mio Dio, pensò, se gli accade come a papà, se non torna mai più.